L'ecumenismo, l'esperanto religioso, definito ecumenismo o meno come più spesso viene chiamato o meno movimento ecumenico, quel complesso di progetti e sforzi tesi all'unità dei cristiani è nato in seguito alle divisioni manifestatosi in seno al cristianesimo. Già di per sé questa definizione parte con il piede sbagliato perché presuppone che il cristianesimo corrisponda alla storia del cattolicesimo romano e in seguito anche a quella del movimento protestante. Così è opportuno ricordare un poco di storia per comprendere quella che viene definita la Chiesa in divisa. I primi cristiani furono perseguitati fino a quando Costantino nel 313 non dichiarò il cristianesimo religione di Stato. Durante i primi 8 secoli, ogni chiesa locale era autonoma e responsabile nella propria regione. Il Concilio Ecumenico aveva definito nel suo terzo canone che il vescovo di Costantinopoli doveva avere il primato d'onore, dopo il vescovo di Roma, poiché Costantinopoli era la nuova Roma. La Chiesa, quindi, riconosceva unicamente un primato d'onore e di anzianità, ma non d'autorità sul resto dei vescovi di una Chiesa. Ma Roma aveva ambizioni imperialistiche. Fu così che nel IX secolo Papa Nicola I, 858-867, cercò di intervenire in un affare puramente interno alla Chiesa di Costantinopoli. Da allora qualsiasi ragione fu valida per litigare. Si litigò intorno alla data della celebrazione della Pasqua, si litigò intorno al celibato. In Oriente era permesso il matrimonio al clero secolare di grado inferiore al vescovo. In Occidente esso veniva proibito a tutto il clero. Sorsero dispute sull'opportunità di portare la barba. In Occidente ci si poteva radere, in Oriente era proibito. Ma nel 1054 la goccia fece traboccare il vaso. Michele Cerulario, vescovo di Costantinopoli dal 1053 al 1058, aveva condannato la Chiesa d'Occidente per l'uso del pane non lievitato nell'Eucaristia. Per porre termine alla disputa, Papa Leone IX inviò in Oriente il cardinale Umberto con altri 2 rappresentanti del Papa per discutere la cosa, ma le divergenze aumentavano. Così il 16 giugno 1054 i rappresentanti del Papa posero sull'altare maggiore della cattedrale di Santa Sofia un decreto di scomunica contro il patriarca e i suoi seguaci. L'unità della religione cattolica romana veniva così infranta dal primo grande scisma, e da quel momento la religione romana e la religione ortodossa seguirono ciascuna la propria strada. Non avendo più rivali in Occidente nel campo religioso, la religione cattolica romana cominciò a manifestare il suo vero volto. I costumi del clero diventarono molto bassi. Amavano mangiare, bere. Alcuni papi ebbero figli, amavano il denaro. I papi dominavano nel vero senso della parola intere popolazioni dell'Occidente. Ma il dominio più grave e pericoloso è stato senz'altro quello spirituale. Non a caso, dopo la scissione con Costantinopoli, stabilirono il dogma del celibato dei preti, 1079. In seguito, quando sorsero dei contestatori contro la corruzione del clero, stabilirono la Santa Inquisizione, 1184. Nel 1215 proclamarono come dogma la confessione auricolare. Nel 1229 la Bibbia venne proibita al popolo. Nel 1414 si proibì il calice nella Santa Cena. Nel 1439 venne stabilita la dottrina del purgatorio. Questi sono solo alcuni dei dogmi che la religione cattolica romana ha stabilito nel corso dei secoli. Verso il 1100 cominciarono a sorgere movimenti popolari di protesta contro la corruzione del clero. Il più diffuso fu quello dei catari, in Francia, ma furono perseguitati, quasi distrutti. Poi sorsero i Valdesi, dal nome di Pietro Valdo, un mercante di Lione, il quale vendette tutto e si mise a predicare la morale cristiana. Ma Valdo era un laico e non aveva il diritto di predicare, e così fu espulso da Lione. Pochi anni dopo, Pietro, assieme ad un altro, si presentò al Papa chiedendo il permesso di predicare. Il Papa Alessandro III concesse il permesso a condizione che lo facesse sotto la guida dei vescovi. Ma il Papa che venne dopo lo scomunicò. Più tardi i valdesi furono tremendamente perseguitati e trovarono rifugio nelle valli del Pellice, in Piemonte. Così i valdesi in quel periodo non costituirono un punto importante per una futura scissione del cattolicesimo romano, perché essi non negavano nessuna dottrina di Roma, ma si accontentavano di mettere in luce e di vivere in pratica l'Evangelo. Non formavano una chiesa in seno al cattolicesimo romano. Essi costituivano dei gruppi sotto la guida di un uomo chiamato anziano. Ad avere il compito di preparare il terreno per lo scisma di Roma furono alcune personalità indipendenti, in conflitto con il potere papale, e cioè Giovanni Wycliffe, i 324-1384. Professore di Oxford, in Inghilterra. Giovanni Hus, di Praga 1313-1415, mentre in Italia fu Girolamo Savonarola, Ferrara 1452. Quest'ultimo denunciò il lusso, l'incredulità, la tirannia degli alti prelati. Scomunicato, continuò a predicare senza attaccare direttamente la religione romana, ma la tirannia del Papa. Fu impiccato e bruciato. Solo nel 1998 la religione cattolica ha ammesso il suo errore. La storia fino a questo periodo ci presenta degli uomini che hanno attaccato la moralità della religione cattolica romana, ma non le fondamenta, perché in fondo vedevano in questa la Chiesa di Gesù Cristo. Quello che doveva dividere in due in Occidente la religione cattolica romana è stato il tedesco Martin Lutero 1483-1546. Martin Lutero studiò all'università, si laureò in lettere ottenendo il titolo di maestro. Nel 1505 entrò in un monastero a seguito di un voto, insegnò teologia e divenne professore di Antico e Nuovo Testamento e proprio nell'impartire lezioni sui libri della Bibbia e soprattutto sulla lettera ai Romani 1:17, il giusto vivrà per fede, Dio lo convinse che la giustificazione davanti a Dio è solo per fede. Da quel momento si scagliò contro le indulgenze della Chiesa, le quali all'inizio erano semplicemente la commutazione delle pene disciplinari della Chiesa, in un'offerta di denaro. Fu così che il 31 ottobre del 1517 affisse alla porta della Chiesa del Castello di Wittenberg 95 tesi contro gli abusi di questa pratica. Fino a quel momento Lutero si era comportato come coloro che lo avevano preceduto. Voleva riformare gli abusi di un sistema. Dopo che Lutero scrisse le 95 tesi, Roma gli chiese di ritrarre le proprie idee. Egli accettò degli incontri, ebbe delle dispute, ma continuava a sostenere che l'unica autorità sarebbe stata non il Papa né il cattolicesimo, ma la parola di Dio. Fu solo nel 1520 che egli colpì Roma in modo definitivo, pubblicando tre libretti, dove attaccava la gerarchia, i sacramenti e la teologia di Roma. Fu così che, nel mese di giugno del 1520, Leone X emanò la bolla di scomunica, che Lutero bruciò alcuni mesi più tardi. Nella primavera del 1521 Lutero fu invitato ad una riunione di Stato e gli fu chiesto di abiurare, ma egli disse «Solo se sono convinto mediante la scrittura e se non vado contro coscienza». Dio mi aiuti, amen. Nel 1526, alla riunione di Stato tenutasi a Spira, i principi dei diversi stati seguaci di Lutero poterono ottenere la libertà di espressione in materia di fede fino a che non fosse convocato un concilio, cioè l'assemblea dei vescovi. Nel 1529, una seconda riunione Aspira annullò la precedente dichiarando la cattolica romana come unica fede legalmente riconosciuta. Ma i principi seguaci di Lutero, 14 città e 5 stati regionali, elevarono la seguente protesta. Noi dichiariamo solennemente dinanzi a Dio nostro unico creatore, redentore, salvatore, il quale un giorno ci chiamerà in giudizio, e davanti a tutti gli uomini che non siamo in alcun modo disposti ad accettare un'imposizione contraria a Dio, alla sua parola, alla nostra coscienza e alla salvezza delle anime nostre. Da quel momento furono perciò chiamati protestanti. Questa fu l'origine onorata di tale nome. Perciò, quando si parla di chiesa in divisa, ci si riferisce al periodo precedente la scissione del cattolicesimo con gli ortodossi e quella prodotta dalle proteste di Lutero. Ma questo non è corretto. E occorre sottolineare con una decisione sempre maggiore che le divisioni avvenute nell'undicesimo e sedicesimo secolo sono riferite alla religione cattolica romana, ma non alla Chiesa di Cristo. Se la religione cattolica non avesse scomunicato nessuno, le cose oggi sarebbero diverse. Perciò, la Chiesa di Gesù Cristo, cioè coloro che hanno Cristo Gesù come pietra angolare, come unica persona da pregare e adorare, è sempre esistita unita. Lo dimostra il fatto che i veri cristiani di ogni epoca hanno sempre realizzato quell'unità già esistente in Cristo, la quale li ha portati, e li porta tuttora, a ribellarsi agli errori delle religioni, siano essi della cattolica, della protestante o dell'ortodossa. Perché, occorre riaffermarlo con forza, il cattolicesimo, il protestantesimo, elite, ortodossa, sono solo religioni, e come tali non possono salvare nessuno, né tantomeno essere la verità. Quindi, l'ecumenismo, pur avendo un nobile ideale e una visione con un entusiasmo capace di fare arrossire anche il più serio cristiano, è sbagliato nel suo sorgere e profondamente corrotto quando vuole eliminare le divisioni dottrinali per mirare alla formazione di una grande chiesa e all'unità visibile di tutte le chiese, per diventare una comunione cristiana mondiale. Tutto questo ha sapore di Esperanto, cioè quella lingua internazionale pianificata e ideata da un medico polacco e avente lo scopo di eliminare i problemi linguistici tra i popoli per contribuire a facilitare la comunicazione culturale e interetnica. Come l'esperanto non può essere tale se non mediante la rinuncia dei popoli a un proprio linguaggio, così chi vuole far parte del movimento ecumenico deve rinunciare alla verità e entrare o ritornare a sottomettersi alla religione cattolica romana, dato che questa si ritiene l'unica vera chiesa. Dall'anno 1054 Roma non ha mai rinunciato alla sua pretesa di essere la voce della verità e anche la verità stessa, e lo ha dimostrato con le sue barbarie persecuzioni e assassini dei cristiani solo perché non accettavano la sua pretesa autorità. Può darsi che in un futuro o meno, per amore di una unità che colpisca i cristiani, possa anche rinunciare a questa sua posizione autoritaria. Ma il tutto sarà secondo i piani di Dio, i quali prepareranno la venuta di colui che si innalzerà sopra tutto ciò che è chiamato Dio o oggetto di culto. 2 Tessalonicesi. In quel periodo l'ecumenismo avrà raggiunto il vertice del suo potere, farà guerra ai veri cristiani e si proclamerà l'unica religione. Ma colui che ha posto fede in Cristo quale Salvatore e unico Dio, sa che è vicino il momento del ritorno di Cristo, il quale sarà re di tutta la terra. Perciò il cristiano non aspetta la realizzazione iniqua dell'ecumenismo per risolvere la difficile situazione del nostro tempo, ma aspetta il ritorno di Cristo perché Lui è la totale risposta ai tutti i nostri problemi, personali e mondiali. Aprile 2007. Ellero.